Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Siamo qui a riparlare questa mattina di un tema che di cui sono stato costretto a occuparmi in maniera abbastanza ricorrente nelle ultime settimane, ma visto che è all'onore delle cronache, visto che anche molte volte parlarne non sempre può sembrare la maniera giusta perlomeno per risolverlo, ne parlo ancora. Parlo della scellerata ma anche abbastanza ridicola campagna che si è svolta nella notte alla Befana a Milano, campagna di affissione di manifesti sotto casa di alcuni scienziati, ricercatori, docenti dell'Università degli Studi di Milano, che li accusava di essere degli assassini, torturatori di animali, manifesti in cui specificava nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Cioè, questa persona è un assassino perché ha ammazzato 15 conigli, quest'altra persona è un vivisettore che da anni tortura animali, questo è il suo numero di telefono, chiamalo per dire a questo boia cosa pensi di lui. Ora, io questa mattina mi sono preso la briga con Fabrizio Intonti di chiamare alcuni di questi docenti ricercatori, hanno detto a maggior parte espresso lo stesso pensiero, ma non abbiamo nulla da dire, nulla da aggiungere, è il nostro lavoro, qualcuno di loro era già abituato da tempo, aveva avuto scritte sotto casa, erano stati sotto il bersaglio di questi estremisti animalisti molte volte, hanno detto vada, secondo me non è nemmeno giusto parlarne di questi argomenti, che parlandone si dà corpo a qualcosa che riguarda molte piccole minoranze. Alla fine questi manifesti non ci hanno causato che pochissimi disturbi, poche telefonate, anzi uno mi ha detto, un professore mi ha detto, sono anche piuttosto disturbato dal fatto che adesso abbiamo le macchine della Digos sotto casa che fanno il loro dovere e devono naturalmente procedere rispetto a una denuncia che c'è stata e una dichiarazione di ostilità così aperta. La procedura dice che è giusto che ci sia un presidio sotto casa di persone gravemente minacciate, però dice avremmo preferito continuare a fare il nostro lavoro onestamente, nel pieno rispetto delle regole accettate, senza che se ne parli, non hanno voluto parlare, dire la loro. Io questa mattina però voglio comunque prendere questo argomento, che è un argomento che mi interessa. Ora mi rendo conto che a fare un volantino, fotocopiarlo e attaccarlo sotto casa delle persone, basta una persona o due persone, non è un'operazione che richiede una grande organizzazione. Però a me inquieta un'altra cosa. In cui dal database dettagliato degli scienziati, perché queste persone comunque avevano nome, cognome, indirizzo, telefono. Oggi con le fonti aperte che ognuno di noi ha su internet è anche abbastanza semplice, però ci vuole un lavoro. Però crearsi il database delle persone da additare comunque alla furia popolare e tacciarli di assassinio, comunque un'operazione che richiede una mente ben organizzata, ben strutturata, richiede un piano dietro. Non voglio creare allarmismi o altro, ma trovo che la futilità dell'argomento in sé, accusare una persona di assassinio perché lavora con delle cavie da laboratorio, come tutto il mondo, i paesi civilizzati fanno per risolvere malattie, per salvare la vita a esseri umani, per aiutare persone che hanno bisogno, un anziano che ha bisogno di una protesi, la protesi va prima testata su degli animali, se no non può essere messa su un essere umano. Se oggi molti anziani camminano, lo devono alla sperimentazione sugli animali. È qualcosa che se ne potesse fare a meno, se ne farebbe molto volentieri a meno, lo dicono tutti, anche perché è molto costosa la sperimentazione animale. Non lo fanno per sadismo, non lo fanno perché le multinazionali questo vogliono, lo fanno perché sono scienziati e lo scienziato sa che in questo momento questo deve fare. No, a me invece preoccupa in sé la futilità dell'operazione, ma riflettete un attimo, si viene considerato un assassino una persona che con tutte le cure e l'attenzione dello scienziato opera su dei topolini del laboratorio, cosa dovrebbe essere un derattizzatore? Le persone che vanno con il gas, con le trappole, con mezzi di sterminio di massa ad ammazzare le pantegane che stanno lungo il greto del Tevere, oppure una persona che si occupa della disinfezione di un posto in cui ci sono dei parassiti, in cui ci sono degli acari. Voi ogni volta che sbattete il vostro materasso, ci mettete lo spray antiacaro, in questo punto rischiate di essere additati come assassini. Il paradosso serve solo a capire che il metodo in sé è spaventoso. Non tanto l'ideologia, rispetto a tutte le ideologie, è una follia, secondo me riguarda un numero ristretto di persone, sono liberissime di pensare, immaginare che la vita del topolino è altrettanto sacra quanto quella dell'essere umano che viene salvato sperimentando su quel topolino, ma quando si passa a questi metodi, sono metodi terroristici, sono metodi che comunque hanno in altri tempi additato persone a la follia individuale, molte persone sono state ammazzate, altre gambizzate, semplicemente perché illuminati intellettuali sui loro raffinatissimi giornali scrivevano che era un nemico del popolo, era una persona responsabile di un delitto, e poi qualcuno è andato e l'ha ammazzato. 800240024, voi cosa ne pensate? Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano, storico, filosofo della scienza, ormai siamo anche noi spesso accoppiati, non vogliamo fare il vittimismo, ma perlomeno nell'ironia pesante di quelli che ci dicono al soldo delle multinazionali, perché parlammo delle scie chimiche una settimana fa, oggi troviamo su questo argomento. Stefano, non trovi che non si può parlare di escalation, perché una persona che con il fiasco in mano la notte alla Befana va a attaccare i volantini non è nulla di grave, ma è grave però ci sia un'organizzazione che tiene a mente i riferimenti individuali delle persone pronti ad additarlo alla furia pubblica? Sì, il metodo è abbastanza inquietante, no? Sembra un andiamoli a prendere uno a uno, casa per casa, questi scienziati che si permettono di... È molto pericoloso come questi tentativi siano dei tentativi di disinformazione, anzitutto basati sull'emotività, e un'emotività veicolata da un linguaggio inappropriato, da termini scientifici usati in maniera assolutamente, anzi non scientifici, usati in maniera assolutamente sconsiderata, che però servono a ottenere quella visibilità che consente loro poi di essere protetti dall'opinione pubblica o da gran parte. Ti faccio un esempio, Stefano, pubblica. I primi due sms sono arrivati, non per giocare sulla volgarità altrui per acquisire carisma. I primi due sms sono arrivati per farti capire quanto poi sia facile giocare, mettere il manifesto con i poveri coniglietti innocenti, che poi non danno altrettanto orrore quando sono sul banco in un macellaio pronti per essere infilzati di carote, di patate, per essere fatti in salmì. È vero, sono degli assassini e voi non rompete il cazzo. È un altro, ma che cazzo fai? Falla tu la cavia. Olga, buongiorno. Buongiorno, no, io sempre rispetto a questi fanatismi che poi secondo me sono privi di vero fondamento. Non so, l'interferone viene utilizzato sia sugli animali che sull'uomo ed è sperimentato sugli animali, quindi serve anche per gli animali, per la leucemia dei gatti. Voglio dire, allora, o noi ci priviamo di tutte queste cose e ritorniamo ad una società non civilizzata, oppure insomma tutti sacrificheremo un po' qualcosa. Cioè quando il cagnolino ha la bronchite si porta dal veterinario, se gli dà la medicina. Non è che gli danno delle cose sperimentate sulla plastica, certo, o sulle tazzine, cioè gli danno esattamente. Allora voglio dire, o non curiamo più neanche gli animali, cioè, nel senso, uno deve essere serio su queste cose, no? Cioè, io parto dal presupposto che nessuno deve soffrire per niente, ma ci sono persone che si sacrificano e si mettono in cure sperimentali, sperando di guarire loro e nel caso comunque di servire ad altri. È chiaro, Olga. Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Premetto che non sono un animalista, ma mi ritengo più che altro un ambientalista e penso che questi metodi siano stile un po' terroristico, come avete detto, però attirare l'attenzione sul problema secondo me è importante, visto che persone come Darwin 150 anni fa hanno dimostrato che siamo identici a livello di sistema nervoso a un topo e quindi bisogna parlarne di questa cosa, oppure gente come Leonardo da Vinci, sì. Einstein, Margherita Hack, che non mi sembrano persone. Qual stupide, è il suo punto di vista? Qual è il suo punto di vista, Paolo? Il mio punto di vista è che è assurda la vivisezione, quindi anche se ci sono metodi stupidi, ma perché usa, scusi, per parlare del problema, Paolo, scusi, è giusto comunque a trattare la vivisezione più che concentrarsi su... Ma perché continua a usare questo termine ottocentesco, che non è un termine attuale? La vivisezione oggi non è più tollerata, ma è perseguita a termini di legge. Non parliamo più di vivisezione, non c'è più l'animale... Succede, la tortura su animali per i test cosmetici sono cose che siamo ancora veramente... Si parla di società civilizzata, una società che testa a livello di cosmetici da donne su topi, su conigli, è una cosa medievale. Ho capito, quindi... Paolo, ma quasi sono degli scienziati che le loro sperimentazioni le fanno secondo protocolli internazionalmente accettati per ricerca scientifica, non si occupano di cosmetici, sono dei biologi, sono dei genetisti, lavorano in delle università, non lavorano per una fabbrica di cosmetici, è un'altra storia. Professore Edoardo Boncinelli, buongiorno, genetista, buongiorno. È il direttore del laboratorio di biologia molecolare dello sviluppo, istituto scientifico universitario San Raffaele, comunque ha tantissime cariche, è riconosciuto di fama internazionale. Professor Boncinelli, possiamo che ogni volta dobbiamo sempre rifare soltanto il punto, e ancora sono persone che parlano di vivisezione e di case cosmetiche che ammazzano i topolini per sperimentare il fard per le signore? Ma io non sopporto proprio chi usa scientemente il termine vivisezione. Vivisezione dà l'impressione che uno piglia un animale sano e tranquillo e gli estirpa delle parti e lo fa soffrire, perché non è l'uccidere che conta, è il far soffrire, perché loro hanno certamente un sistema nervoso e quindi soffrono. Nessuno fa da decenni qualcosa che somiglia alla vivisezione. Io ho fatto ricerca per 50 anni e ho visto cambiare completamente le regole, ringraziando Dio, in tutto il mondo, in cui gli animali vengono trattati bene nel mantenerli, bene nel prelevarli e bene nella anestesia. Certo, non si può fare a meno, come dicono gli inglesi, non si può fare una frittata senza rompere un uovo, si può fare a meno di certe esperienze. D'altra parte, ma è chiaro che certe cavie muoiono, se no non sarebbero cavie. Come ha detto giustamente quella signora, non servono solo agli uomini, servono anche agli animali. Io avevo un cagnolino che aveva una displasia delle anche ed è andata avanti per ben 10 anni perché gli dava delle medicine, quindi non è solo per gli uomini, anche per gli animali stessi che noi facciamo ricerca. Ma anche gli animali, grossi animali, sarebbe un cavallo senza le medicine, esatto, che lo mantengono, esatto, in forma, esatto, o che lo curano? Cosa sarebbe una mucca se non curata? Cosa sarebbero anche gli animali, non soltanto gli animali a compagnia? Luciana, buongiorno. Sì, salve Nicoletti, sono Luciana da Genova. Senta un po', volevo intervenire su questo perché avevo già chiamato ieri ma non sono riuscita a farmi rispondere. Parli allora. Dunque, io parlo dicendo questo, che per me chiunque senta bene, e sentitelo tutti, chiunque si serva degli animali per fare delle sperimentazioni, scienziati, controscienziati, tutti quelli che volete, sono semplicemente della gente vile, oltre che sadica. Ma senta un pochino, ora parliamoci chiaro, ci vuole l'immedesimazione, bisogna che uno si immedesimi nelle cose, ma prendi me. Va bene? Sì. Prendi me, che ho una gravissima malattia, ma intervieni su me. Prenditi me come cavia, ci sono tantissimi volontari. Scusi Luciana, lei quale che malattia? Essere innocente. Luciana, mi faccia parlare. Tu prendi un essere innocente, non piazzi lì. È inutile che quello lì mi viene a dire: "Ah, la sperimentazione è cambiata, non si parla più di vivisezione", ma tutte palle, ma sono Ma lei cosa ne sa, scusi Luciana? Ma ne so perché leggo e mi documento. Ma dove si documenta? Ecco, ma dove si documenta? Mi documento su internet, mi documento. Ma scusi, lei sta parlando. L'ho fatta parlare con degli scienziati. Ma pensi un pochino, prendano lei, Sì. Ecco, si offra un po' lei. Ma io non mi offro con tutte queste cose qui, perché lei cosa di diverso? Come, diciamo, come sentire, cosa c'è in lei di diverso da un animale? Signora, se io, scusi, le faccio un esempio banale. Lei in vita sua non ha mai preso una medicina? Non ha mai preso una medicina, signora? Certo, cosa vuol dire? Ma le medicine se posso prendo le medicine omeopatiche, comunque... Sì, ma se lei ha una malattia, invece che prendere l'acqua zuccherata... Ma mi offro io, Ma quando si offre lei, signora? Quando lei ha il mal di testa che prende un cachet? Quel cachet in qualche maniera... Ma non siamo a fare, queste sono cose popolie, queste sono cose che le fanno per continuare, per poter continuare con il solito sistema. Ma perché? Sono dei sadici, lo fanno perché sono cattivi? Sì, Nicoletti, senta, io una volta ho visto una trasmissione in televisione che ho dovuto spegnere, va bene? Fanno degli esperimenti sugli animali, sui cani, ad esempio, gatti. Ma dove? Ma delle cose assurde. Ma è proibito, assurde. Signora, non lo fanno, vanno in galera se fanno un esperimento su un gatto. No, sì, allora quella trasmissione che aveva fatto vedere il report, guarda, forse vanno in galera. Ma non è vero, questo lo pensa lei. Comunque, vabbè. Nicoletti, sì. Stia a sentire, io so che lei... Lei è vegetariana, signora? È vegetariana? Eh? È vegetariana? Io sono vegetariana, sì, ma no, non sono vegana, io sono vegetariana. Cioè, quindi... E mi dispiace, dovessi dire la verità, perché ora non mi venga a dire il sistema delle pianticine che anche loro, poverino, so. Perché no, io non lo so, signora, se dovessi mangiarmi un topolino vivo, se questo facesse, salvasse la mia vita, lo farei, non è che ho problemi, io sinceramente. O se dovessi aiutare a curare una malattia grave e andare a prendere i topi perché dovessero sperimentarli, ci andrei io a prenderli con le mie mani, non mi faccio problemi su questo. Lo dico, me ne prendo la responsabilità. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando ancora non tanto della sperimentazione animale, che mi sembra, almeno dal nostro punto di vista, un dato accertato che non possa essere equiparato a un assassinio, a un delitto contro l'umanità, ma entriamo nel metodo e nel fanatismo che molte volte cammina su ali basate su costruzioni e meccanismi molto fragili. Mi scrive, lo dico a Stefano Morigi che mi ascolta, ricordo filosofo della scienza e storico, cioè Sabin i vaccini se li faceva inoculare a se stesso, non sugli animali. Filippo, Stefano, su questo ha telefonato. No, sai cos'è la cosa più preoccupante? Che però d'altra parte consente a tutti di identificare le posizioni quando sono fanatiche davvero e ideologiche davvero. Il fatto che nessuna evidenza disponibile e accessibile a tutti consente loro, non dico di cambiare idea, ma perlomeno di ragionare sulle loro posizioni. La signora che ha chiamato prima è un esempio. La signora potrebbe chiedere di visionare un laboratorio, i protocolli che sono praticati all'interno del laboratorio e documentarsi su quello che avviene dentro. Non lo fa perché non ha nessuna, diciamo, interesse a documentare di più quell'ignoranza che ha manifestato. Vabbè, queste sono le basi del fanatismo religioso. Esattamente, ma questo è l'esempio. Il fanatismo non è solo religioso, c'è un fanatismo, diciamo così, laico e non meno pericoloso, di cui questo tipo, intendiamoci, questo tipo di animalismo, non l'animalismo tout court, ma questo tipo di animalismo è una forma strisciante e insidiosa. Non accettano il dibattito, non prendono atto delle evidenze, se non addirittura le negano per sostenere un disegno che loro hanno e che non ha possibilità, sì, però di essere, diciamo, è il meccanismo patologico delle più poverine, abbandonate a se stesse gattare, che tutto il mondo voglia far male ai loro gattini, ogni tanto per motivi normali, dei gatti lasciati per la strada, ne muore qualcuno, cercano l'assassino ai loro gatti. Fermiamoci un attimo, al telefono l'onorevole Ilaria Capo, buongiorno. Buongiorno. È una virologa e politica italiana, eletta del nuovo Parlamento per la lista Scelta Civica, con Monti per l'Italia, formazione all'interno della quale è responsabile per la ricerca e la cultura. In campo scientifico ha contribuito in maniera determinante alla comprensione sull'influenza aviaria. Il suo più grande contributo si è avuto nello sviluppo della cosiddetta scienza open source, con la sua decisione di rendere pubblica la sequenza genetica del virus dell'aviaria nel 2006. Ho letto la scheda, così sto attento a non fare errori, visto che è complesso presentare in pochi istanti un ospite. Sottoponiamo anche lei il problema, che anche se sembra difficile da dover risolvere, come si può trovare degli strumenti di informazione corretta rispetto a quelle che sono le evidenze scientifiche, quando ci troviamo di fronte a una mentalità che è tipica del fanatismo più estremo, non sente ragioni, l'umanità è fatta di persone cattive e crudeli che per gusto sperimentano facendo a pezzi gli animali. Ma allora io vorrei, se possibile, non rispondere a questa domanda, perché mi sembra che se ne sia dibattuto, ma vorrei far riflettere i radioascoltatori e gli altri partecipanti sul fatto che delle posizioni così contrapposte di fatto provocano un immobilismo di tipo decisionale, quindi noi siamo in un impasse e io questo lo dico più da parlamentare che da virologo, nel quale si cerca di trovare un compromesso che di fatto scontenta uno e scontenta l'altro. Perché la politica se la fa sotto di fronte alla paura di perdere il consenso dell'Italia gattara. Esatto, mi sta rispondendo, no. Quindi. No, io volevo però far presente che questi sono problemi complessi, articolati, che hanno soprattutto delle ramificazioni che vanno al di là dell'oggetto del contendere. Beh, scusi, forse... onorevole, quando abbiamo avuto una sfilza di politici, non ultimo anche Mario Monti, che si presenta col cagnolino in braccio per fare propaganda elettorale, le capisce che si affonda in un immaginario che si immagina che comunque crea consenso, quindi hanno paura. Quando l'onorevole Brambilla può permettersi di dire di fermare la sperimentazione perché ama i suoi cani, non sapendo nulla di evidenze scientifiche, capisce che è un paese un po' singolare. Sicuramente, e volevo così aggiungere che al di là dell'oggetto del contendere, perché lo avete detto prima voi, ci sono delle persone che hanno delle posizioni estremamente di parte e poi di fatto non conoscono le cose come sanno, però io vorrei fare un altro ragionamento, e che è questo. Allora, ognuno di noi, quando succede qualche disgrazia in famiglia, si appella alla ricerca e dice e chiede, speriamo che la ricerca trovi delle soluzioni nuove per curare il mio fratello piuttosto che mio figlio. Allora, la ricerca deve di fatto passare attraverso la sperimentazione degli animali, questo che ci piaccia o no, è necessario. Nel senso che sono protocolli consolidati, il resto del mondo funziona così e quindi dobbiamo funzionare anche noi così. Allora io vorrei dire questo, che se noi andiamo verso una progressiva eliminazione della sperimentazione animale, l'Italia si taglia fuori dalle cordate di ricerca internazionale. Il caso, quindi, Stamina, oltre... il caso Stamina ce l'ha insegnato, stiamo, esatto, coprendoci di ridicolo nei confronti, esatto, del mondo. Ma al di là del ridicolo, noi non potremmo più fare cose che in Spagna, in Portogallo e in Francia fanno, quindi la cordata che serve per arrivare da A a Z, noi da L a Z non lo potremo fare, perché l'ultima fase prevede di solito l'intervento sugli animali. Ma vorrei andare un po' oltre questo. Quanti ragazzi, figli dei nostri radioascoltatori, studiano biologia, biotecnologie, scienze dell'alimentazione, medicina, veterinaria? Allora, se noi ci tagliamo fuori dalla ricerca, tutti questi ragazzi che hanno in cuore il desiderio di fare il ricercatore dovranno andare all'estero. Quindi questo problema della sperimentazione sì, sperimentazione no, ha delle ramificazioni, secondo me, importantissime dal punto di vista strategico per il paese. Allora, l'Italia vuole spararsi nei piedi, scusate, sì. Ecco, allora, anche un po' più in alto, vuole tagliarsi fuori dalle cordate di ricerca internazionali? Sì, se questo vuole fare, allora sia chiaro che è inutile che i nostri figli li facciamo iscrivere alle facoltà scientifiche perché hanno il sogno di fare il ricercatore, perché qui non troveranno mai lavoro. Quindi, quando dico che è un problema complesso e articolato, c'è anche questo elemento. In un paese che è disperato perché c'è il 40% di disoccupazione giovanile, ma noi possiamo permetterci di tagliare quella che è di fatto una fonte di lavoro? Le aziende biotech, le aziende che operano nel farmaceutico, le aziende che si occupano per esempio di sviluppare nuove protesi, nuove device per la cardiochirurgia, per le valvole nuove, queste qui non investiranno mai in Italia. E tra l'altro in alcuni esempi siamo anche all'avanguardia, cioè abbiamo delle aziende molto importanti per le protesi. Abbiamo delle aziende importanti e abbiamo fior fiore di ricercatori che lo Stato italiano ha formato. Quindi, ripeto, non ho capito che il dibattito venisse portato anche su un altro piano. Lei trova consenso fra i suoi colleghi quando dice queste cose? O stanno tutti zitti perché dice, sai, in fondo poi votano, c'hanno tutti un cagnolino, è più emotivo far vedere il povero cagnolino scuoiato, come mi stanno scrivendo, scuogliano i cani, i gatti, ma dove? Lo faranno anche, ma scuogliono anche gli esseri umani, li massacrano, sono atti contro la legge e che stanno in un'area di repressione e di rigore della legge, non è che si può pensare che lo fanno così perché gli piace farlo. No, ma comunque non si fa, cioè in ogni stabulario c'è un veterinario, più veterinari, ci sono dei tecnici che sono formati per rispettare il benessere degli animali, quindi insomma... parliamo delle cose come stanno. Mi sembra chiaro. Capiamo... Ilaria Capua, la sua precisazione è stata importante. Grazie Stefano Morigi, grazie professor Boncinelli. Oggi abbiamo finito.